480. Storione in fricandò. Lo storione è buono in tutte le maniere, lesso, in umido, in gratella. Quanto all'umido, potete trattarlo nel seguente modo. Prendetene un pezzo grosso del peso almeno di grammi 500, spellatelo e steccatelo con lardelli di lardone conditi avanti con sale e pepe. Poi legatelo in croce e infarinatelo, mettetelo al fuoco con olio e burro e conditelo ancora con sale e pepe. Quando sarà arrosolato da tutte le parti, bagnatelo con brodo per tirarlo a cottura e prima di levarlo strizzategli sopra un limone per mandarlo in tavola col suo sugo.